Ardent Heavy, inizia anche il secondo appuntamento della settimana con lo spazio dedicato all'hard rock e all'heavy metal, insieme alla voce di Marco Gravelli, insieme come sempre al nostro sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Il ringraziamento va al nostro autore Simone, che ha preparato anche per questa sera la tracklist, che inizia con la band americana dei King Cobra, gruppo creato da un batterista che abbiamo avuto nostro ospite poche settimane fa, Carmine Appice, nato nel 1984 insieme al cantante, non lui ma il gruppo naturalmente, insieme al cantante Mark Free, che in seguito avrebbe fatto parte dei Signal. Al lineup ultimato ottengono un contratto con la Capitol Records, che ne ha pubblicato l'album d'esordio Ready to Strike. Siamo nel 1985, album che ebbe subito un buon seguito. Non fu così per il secondo, Thrill of the Lifetime, dell'anno seguente, che andò decisamente male e gli fece perdere il rinnovo con l'etichetta. Seguono l'abbandono del cantante Mark Free e altri cambi di lineup. Il suo posto viene preso da Johnny Edwards, ex Montrose, e con lui pubblicano il terzo album King Cobra Free nel 1988. Dopo la pubblicazione dell'album però la band si scioglie. Soltanto nel 2000 Appice riforma i King Cobra con un nuovo cantante, cioè Kelly Feeling degli MSG, ed altri nuovi musicisti, e con loro incide il quarto album Hollywood Trash, al quale segue il definitivo scioglimento. Andiamo a prendere in esame forse l'album più bello, il primo, Ready to Strike. Il pezzo si intitola Breaking Out, King Cobra. guardando la copertina del disco, la formazione, il loro look, belli cotonati, belle foto. All'epoca siamo al primo album, 1985, l'album d'esordio Ready to Strike per i King Cobra, questa era Breaking Out. La seconda band che vado a proporvi si chiama Leather Wolf, è una band americana composta da 5 elementi, nati in quel di Los Angeles nel 1981, il loro nome comincia a circolare l'anno successivo grazie ad una data di supporto ai Metallica. L'album d'esordio, l'album di debutto, arriva nell'84 e si intitola come loro, Leather Wolf. Avrei dovuto e voluto proporvi quello, mi sono confuso con il secondo album che si intitola come loro, sempre uguale, Leather Wolf, quindi ho preso il secondo dove già si erano accasati ad una major quale la Island Records. Poi arriva il terzo album dell'87, forse il migliore della loro produzione, Street Ready, al quale fa seguito un album dal vivo nel 1999. Poi la band si scioglie e dopo ben 19 anni dall'ultimo album in studio, a sorpresa lo scorso anno viene pubblicato il quarto album di questi Leather Wolf, che vedeva comunque parte della formazione cambiata. Ad esempio alla voce c'è Wade Black già dei Crimson Glory e dei Seven Witches, al basso c'è Pete Perez dei Riot, alla batteria Eric Halpern dei Destiny Ends. Lo scorso anno il cantante Wade Black ha però deciso di lasciare la band per ritornare dei Crimson Glory. Vi segnalo che la band in questione è ancora attiva e suonerà due date proprio in questo weekend: 8 novembre al Black Horse di Cermenate e Como, 9 novembre al Rock House di Pescara. Leather Wolf dal loro secondo album, che quindi ha lo stesso titolo del primo, cioè Leather Wolf, li ascoltiamo con Gypsies and Thieves. Watch out! Secondo album, attenzione che ha lo stesso titolo del primo. So che il primo è uscito nell'84, due anni dopo il secondo in questione. Leather Wolf è il nome della band, Leather Wolf il titolo dell'album. Il pezzo che vi ho proposto è Gypsies and Thieves. Ci allontaniamo dal passato per arrivare alle cose più recenti, almeno con la prossima proposta, che come Leather Wolf sono in arrivo questa settimana in Italia. Si tratta degli Alabama Thunderpussy, stoner band americana che suonerà questa domenica 11 novembre a Milano. Suoneranno proprio dal vivo qua a Milano al Garage di Sesto San Giovanni. La band è composta da 5 elementi, a metà marzo è uscito con il loro sesto album Open Fire, e sto parlando degli Alabama Thunderpussy, gruppo nato nel 1996, creato dal batterista, dal chitarrista e dal secondo chitarrista. Dopo un demo di 6 tracce arrivano all'esordio nel 1998 con l'album Rise Again. Nel 2003, dopo il quarto album, vi è il cambio del vocalist. Il quinto lavoro, Fulton Hill, esce nel 2004 e gli è valso il tour di supporto ai G-Ware e alla band degli All That Remains. Per questo nuovo lavoro, Open Fire, c'è da segnalare un nuovo cambio di vocalist con l'ingresso di Kylie Thomas, proveniente dai connazionali Exorder. L'album è stato anticipato dal singolo Words of the Dying Man. Oggi però vi propongo questa non-shell return dell'album Open Fire, l'ultimo in ordine di tempo per gli Alabama Thunderpussy. Domenica 11 al Garage di Sesto San Giovanni, proprio qua a Milano, gli Alabama Thunderpussy proporranno le loro canzoni, magari anche questa non-shell return estratta dal loro ultimo sesto album intitolato Open Fire. Andiamo in Germania questa volta con la band dei Bonfire, band hard rock tedesca che ha ottenuto un grande successo nella metà degli anni 80. Il gruppo nasce nel 72 col nome di Kakumen, e con questa denominazione pubblicano due album. In seguito nell'86 viene cambiato in Bonfire. Nello stesso anno arrivano all'esordio con questo nome con l'album Don't Touch the Light. Il successo arriva con il secondo lavoro Fireworks dell'87 con la produzione di Michael Wagner. Alla batteria vi era anche il bravissimo Ken Mary dei Fifth Angel. L'album resterà nelle classifiche nazionali per ben 30 settimane, conquistando disco d'oro e tour insieme a Judas Priest. Il quarto album, intitolato Knockout del 91, deluse le aspettative e così l'anno seguente il cantante Klaus lascia il gruppo. Il suo sostituto è il valido Michael Borman, proveniente dai connazionali Jaded Art, con il quale la band registra un album dal titolo Feels Like Coming Home, però l'etichetta discografica si rifiutò di pubblicarlo perché voleva che il cantante fosse ancora il precedente Klaus. Pertanto la band si scioglie nel 94 ed è grazie a un nuovo progetto dei due fondatori del gruppo, cioè il cantante Klaus e il chitarrista Ziller, che la band viene riformata nel 96. Dopo una lunga battaglia legale riconquistano tutti i diritti sul marchio e così possono anche pubblicare finalmente quell'album Feels Like Coming Home. Seguono altri lavori, l'ultimo in occasione del 20° anniversario è uscito lo scorso anno e si intitola Double X. Il pezzo che vado a proporvi ora è il motivo che apriva quest'album Don't Touch the Light, motivo dal titolo Staring Eyes, sono i Bonfire. Lavoro dei tedeschi Bonfire con le note di questa Strain Eyes. Andiamo a chiudere lo spazio del passato con una band ancora americana proveniente dalla Florida, molto noti. Si chiamavano Crimson Glory, hanno la particolarità di suonare dal vivo con delle maschere di ferro, poveri loro. La band nata nel 79 dal chitarrista Ben Jackson e dal batterista Dana Barnell. All'inizio si chiamavano Pierced Arrow, poi l'hanno cambiato in Beowulf e con l'ingresso in formazione del cantante Midnight, avvenuto nel 1983 il suo ingresso, il nome definitivo diventa Crimson Glory. Dopo un demo dell'85 ottengono un contratto con la Par Records per l'America e Roadrunner per l'Europa. Pubblicano il loro album d'esordio Crimson Glory nel 1986 e andarono in tour in Europa con Anthrax e Metal Church. Importante il secondo album, Transcendence, prodotto da Jim Morris presso i suoi Morris Sound Studios, che riscosse ancora maggior successo del precedente. Nonostante ciò arrivano i primi malumori interni al gruppo e portano all'abbandono di diversi. I due membri fondatori ad esempio se ne vanno, cioè Ben Jackson e Dana Barrell. Esce comunque un altro lavoro, Strange and Beautiful, di stampo hard rock, che delude i fan. Anche il cantante Midnight abbandona la band e così il gruppo si scioglie nel 1997, quando arriva una prima reunion con un nuovo batterista e soprattutto un nuovo cantante, Wade Black. Con questa nuova formazione pubblicano il loro quarto album nel 99, Astronomica, musicalmente diverso da quanto proposto nei primi due lavori. Dopo la pubblicazione di questo album, Wade Black lascia la band. Di recente è avvenuta un'altra reunion con la lineup storica, ma sentite un po', il cantante appunto Midnight però viene arrestato, quindi viene cacciato dalla band, estromesso dal gruppo, e al suo posto viene di nuovo richiamato Wade Black. Per ora non ci sono altre pubblicazioni sul mercato. Andiamo a prendere in esame il bellissimo pezzo Valhalla dal primo album intitolato come loro Crimson Glory. formazione americana dei Crimson Glory dal loro album d'esordio con le note di Valhalla. E chiudiamo la prima parte di questa sera di Art and Heavy con l'ex batterista dei Prophet, nonché cantante ex dei Danger Danger, cioè Ted Polley. Questo è il suo secondo album da solista, intitolato Smile, il primo pubblicato dalla etichetta nostrana, cioè la Frontiers Record. Con ospiti alle 12 corde il chitarrista ex King Cobra J.K. Northrup, il tastierista Eric Ragno, già dei Takara, e Dan Zoid alla batteria. Lo ascoltiamo con Waiting Line, Ted Polley. We'll be right back.